Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 16 aprile, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti a Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina, alla conduzione di questo programma per il carcere e la città, e qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti e a tutte. E Marco Santarelli, regista da Roma, per tutta la settimana con noi, grazie. Grazie, grazie a te Caterina e un saluto a tutti. Allora, io vi apro oggi con una giornata per il carcerato, e questa è una richiesta di Don Ettore Cannavera su volontariatosaec.it, perché ha scritto una lettera veramente commovente a Papa Francesco. Lui è un prete da tanti anni, si occupa dei minori al carcere minorile di Cagliari, e ha deciso di dedicare tutta la sua vita a loro, e dopo, più tardi, ha istituito La Collina, una comunità di recupero per detenuti giovani e adulti, dove vengono accolti detenuti anche con reati molto molto gravi, che scontano quelli che possono ottenere di scontare la pena poi fuori, scontano la pena da loro, sperimentano una vita comunitaria di lavoro e di serenità, scrive, di cultura, e dice: ci educhiamo tutti assieme, loro imparano a convivere civilmente col prossimo, noi impariamo ad accogliere chi ha sbagliato e a scommettere sulla loro decisione di non sbagliare ulteriormente. E allora per questo lui fa una richiesta a Papa Francesco e dice: non potremmo istituire la giornata mondiale del carcerato? C'è quella del migrante, c'è quella del malato, ma del carcere spesso ci si dimentica, allora magari con una giornata internazionale dedicata a questo ce ne dimentichiamo un po' meno, no? E allora fa questa richiesta e dice: al mondo ci sono milioni di carcerati, di esseri umani trasparenti e sconosciuti, che sommano alla propria condizione di ultimo quella di dimenticato. Facciamo in modo che non sia più così. Ignazio, notizie internazionali, sì. Ramadan in Egitto. Ramadan, però quello che dici mi spinge a ricordare una detenuta che mi ascolta, l'assoluto, lei capisce di chi parlo, che mi ha mandato una lettera in cui dice: abbiamo bisogno che si sappia di noi, che si sappia più di noi. Ma ha detto anche: lasciateci gridare i nostri problemi. E noi vogliamo farlo in un certo modo, un programma che cerca di essere vicino a voi e nello stesso tempo di far ponte anche con le professionalità del carcere e con la città. Ma questa è l'intenzione, rendervi sempre più protagonisti. E allora per il Ramadan, ecco, sono uscite le norme dell'Egitto, intanto ancora auguri, primo venerdì di Ramadan, mi colpisce che consentono il fatto di trovarsi in moschea per la rottura del digiuno. Ma quello che mi fa un po' soffrire, purtroppo siamo in situazione di guerra, anche i cristiani hanno subito sulla Pasqua tante restrizioni, non si possono più fare quest'anno le preghiere del Tarawih, quelle a cui tutti sono legatissimi, cioè dopo la sera, dopo la lettura, e poi i grandi banchetti in strada. Io ho visto delle tavolate al Cairo di 150 metri, in cui c'erano tutti, poveri, professori, tutti insieme, ricchi e poveri, intellettuali, e persone ignoranti, e la rottura del digiuno è un momento di grande festa, di grande unità della comunità dei musulmani. Le abbiamo fatte anche qua a Bologna, le facciamo, a vederle nei paesi arabi fa impressione. Quindi il pensiero che non si possa quest'anno, purtroppo, per il secondo anno di seguito, fare queste festività stringe il cuore e ci fa attendere con molta speranza il prossimo anno, dove ritorneremo a fare Pasqua, Ramadan, tutto quanto, speriamo. E hai ancora qualche minuto per parlarci, secondo me, del brano musicale di oggi, perché l'hai scelto. Sì, allora, oggi a chiusura di questa settimana dedicata un po' alla musica araba, quindi cantanti, vorrei mettere un pezzo che per me è stato molto importante, di Amir Aedes Autolohorria, Voce della Libertà. È un po' l'inno della primavera araba, girato appunto in piazza. Ecco, questo cantante, si canta delle cose molto semplici, siamo scesi in piazza, non torneremo indietro, per dire il nostro desiderio di libertà, le nostre armi sono i sogni. E questo mi ha fatto pensare molto anche alla Costituzione, di cui parleremo dopo, come sogno di bene per tutta una società. Quindi ascoltiamo Amir Eid, Saut al-Hurriya. سلاحنا كان أحلامنا وبكرة واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقي مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا أهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا. E ben ritrovati su Liberi Dentro, la nostra trasmissione che fa da ponte tra il carcere e la città. E siccome facciamo da ponte, noi tocchiamo tutte le culture, in particolare con la rubrica Galateo Arabo, parliamo di tutti i paesi che abbracciano il nostro Mediterraneo. Questa settimana il protagonista è l'Egitto e parliamo di dignità umana. Esatto, la dignità è la chiave di una Costituzione. Perché come per la dittatura, ecco, fa in modo che l'uomo, diciamo così, sia ridotto un po' un automa, non puoi fare, non puoi pensare, non puoi dire, ecco, devi fare quello che ti dico, sei una macchina. Il segno della democrazia è quello del rispetto della dignità umana. Quindi sentite che bello questo articolo della Costituzione araba. Al karama haqqun kulli insan wa la yajuzu al masas. Allora, la dignità è un diritto di ogni persona e non si può lederla. E lo Stato si impegna a proteggerla e difenderla. E poi ancora più esplicito questo articolo 52 sulla dignità. At-ta'zib bi jami'i suwarihi wa ashkalihi jarima la taskutu bit-takadum. Allora, dice così, la tortura in tutte le sue forme e modi è un diritto che non si prescrive. Allora qua lo Stato egiziano si impegna solennemente a dire che quando si commette un delitto di tortura lo Stato non lo dimentica. Può essere che uomini dello Stato sbaglino, capita, anche l'uomo di Stato commette dei reati, ma lo Stato non dimentica. Mi sembra che non ci sia nessun commento migliore, nessun motto migliore per il caso di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Questo è la Costituzione egiziana, attuatela. Grazie Ignazio, ne approfitto per dire ai nostri ascoltatori che noi continueremo anche lunedì prossimo con le nostre puntate. Ci sarà una novità, ci sarà con me una conduttrice, Antonella Cortese, e poi ci sei sempre anche tu per il Galateo Arabo ancora certo. Per un po', vero? Bene, allora con il nostro Marco Santarelli... Quest'anno c'è il tuo grande ritorno al carcere della Dozza con questo documentario che hai intitolato Il Giocatore. Io ti chiedo perché questo titolo e poi una curiosità, i provini, come li hai fatti alla scelta degli attori? Sì, allora, non sarà, diciamo, è un ritorno simbolico perché il film non sarà girato alla Dozza, sarà girato in Emilia-Romagna e... in un carcere dismesso dell'Emilia Romagna, e il titolo Il Giocatore nasce dal protagonista del film, che è un ex detenuto marocchino che è uscito, ha scontato la sua pena, è fuori, si sta facendo una vita e torna in carcere per raccontare la sua storia di uomo libero. E però qualcosa ha torto quando rientra e si ritrova e finisce in una rivolta, chiuso, bloccato in carcere. E questa rivolta lo costringe a fare un po' i conti con non solo con i suoi fantasmi del passato, ma anche con tutti i dubbi del presente. di una vita che ancora non è sbocciata, con una vita fatta di tanti dubbi, incertezze, no? E chiaramente questa situazione di tensione all'interno del carcere accresce in lui ancora di più la paura del futuro, e anche perché deve fare i conti anche con i suoi ex compagni che si ritrova davanti in una situazione di tensione, di emergenza, e lui deve in qualche modo riuscire a salvare la pelle, a salvare la pelle delle persone, degli ostaggi, perché ci resterà dentro con degli ostaggi, e deve evitare poi il peggio per i suoi ex compagni. Quindi, insomma, un film ambientato per gran parte delle scene all'interno di un carcere, in un luogo simbolico, un luogo a me caro, perché è un film che nasce, che è una biblioteca, è un film che nasce un po' dalle esperienze dei miei precedenti documentari in carcere, che sono Mille e una notte e Dustur, che mi ha dato un po' lo spunto per raccontare questa storia. Quindi la storia di un ex detenuto che torna dentro e si ritrova all'inferno. E una curiosità, per l'appunto, i provini, come gli hai fatto la scelta degli attori? Sì, i protagonisti sono tutti, diciamo, i protagonisti della rivolta sono ragazzi stranieri mi sono mosso tra attori non professionisti. Ho fatto un casting a Bologna di un bel po' di mesi, e mi ha dato una grande mano Cantieri Meticci, che mi ha messo a disposizione i loro spazi e ha fatto incontrare tantissimi ragazzi. E quindi è diciamo un casting dal basso, un film che vuole restituire in modo il più possibile autentico e vero un po' quella che è la condizione del carcere. Non solo di chi sta dentro, ma di chi in qualche modo cerca di rifarsi una vita. Non vediamo l'ora di vederlo, questo nuovo lavoro che hai in serbo per noi, e come ci salutiamo tutte le settimane con gli ospiti, allora l'ultimo brano lo chiedo a te. Sì, l'ultimo brano è una piccola fuga di Bach. Ascoltiamola, grazie, ci rivediamo dopo con Maria Inglese. Buona giornata, grazie a tutti. Buona giornata a tutti. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre con Maria Inglese, come di consueto ogni venerdì, per concludere la nostra settimana di Liberi Dentro di Radio. E con te, Maria, abbiamo fatto un lunghissimo percorso dove vorrei solo citare alcune tappe, dalle emozioni in spazi chiusi, alle malattie dell'istituzione carceraria, così le abbiamo chiamate, alle esperienze che segnano la vita, come per esempio la paternità, la genitorialità di persone che in questo momento si trovano dentro, fino alle figure della cosiddetta rieducazione, quindi gli educatori. E oggi però, per concludere un po' con fiducia questa settimana, vorrei affrontare con te quattro parole, che sono queste: liberazione, dimissione, scarcerazione e ritorno a casa. Grazie Caterina. Sì, penso che sia arrivato un po' il momento anche di parlare di questa benedetta liberazione, auspicata liberazione. E per parlare di queste parole mi viene in mente una frase che era scritta sui muri dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dove lavorava Basaglia, che mi ha sempre molto colpito. E la frase recita così: uscire dentro, entrare fuori. Ecco, io l'ho trovata sempre molto indicativa di quel auspicata, di quella desiderata osmosi che ci dovrebbe essere tra un'istituzione totale, come era in passato il manicomio e come oggi ancora un'istituzione totale è il carcere, appunto di questa osmosi tra il dentro e il fuori, quindi tra quello che avviene dentro le mura e quello che avviene fuori dalle mura, dove c'è la comunità. E la parola comunità è una parola molto abusata, devo dire, e anche forse un po' fuori, cioè si riesce a contestualizzarla molto, molto poco. Il carcere è parte della comunità? Cioè sarebbe un'affermazione. In realtà mi viene sempre da pensarla come una Una domanda. domanda. È veramente parte della comunità? E allora ecco, ci sono delle parole che l'esperienza basagliana mi ha regalato nella mia formazione, che sono appunto coraggio, innovazione, inclusione, immaginazione. Apprendimento e gruppalità. Ecco, mi viene da pensare che anche per l'esperienza della scarcerazione, della liberazione, della dimissione, dovremmo fare tesoro di queste parole, cioè riuscire a immaginare un percorso per le persone, un riaccoglimento, immaginare qualcosa di inclusivo, qualcosa che sia coraggioso e che sia un po' un riappropriarci di quella essere insieme, cioè di essere parte di un gruppo. È questo che secondo me è la comunità. E quindi quell'osmosi mi piacerebbe pensarla come veramente pensabile e possibile per chi esce e uscirà dal carcere. Ricordo anche un'altra frase che mi disse un detenuto quando appunto decise di uscire dal carcere, di non lavorare più in carcere. Lui, che aveva l'ergastolo, mi disse: ma il carcere non è per sempre. E me lo diceva lui. Ecco, io trovo che dobbiamo ricordarci, il carcere non può essere per sempre, per chiunque, anche per gli operatori che ci lavorano, ma soprattutto per le persone che sono lì dentro. Quindi mi apro proprio a questa possibilità di un ritornare a casa per le persone che usciranno, che escono dal carcere e che abbia queste caratteristiche di una veramente una osmosi reciproca, un'inclusione reciproca, un riaccoglierci reciprocamente. Molto bello, e ti chiedo se vuoi concludere la nostra prima parte con un brano musicale. Sì, certo, pensavo di lanciare Modugno, Volare. Ascoltiamola. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E eccoci sulle note musicali veramente liberanti di Modugno, Volare. Allora, stavamo parlando di ritorno a casa. Io quando penso al ritorno a casa mi viene in mente Omero, mi viene in mente Ulisse, questo Nostos, quando si chiama il ritorno, no? Esatto. Ma per chi esce dal carcere, i cosiddetti dimittendi, il momento del ritorno è anche un momento critico, perché è anche, certo, un momento in cui c'è un nuovo inizio, c'è la possibilità di iniziare qualcosa, ma si va incontro anche a cose lasciate indietro. E quindi, che uomini e donne ritornano nelle comunità di cui parlavi prima? Hai detto bene, cioè il momento della dimissione è un momento molto critico e anche molto attenzionato, ultimamente lo sta diventando molto di più anche negli istituti della nostra regione. Perché? Perché le persone tornano magari in, appunto, luoghi che non sono pronti a riaccoglierli, famiglie che si sono anche separate, lontananze emotive, lontananze relazionali. Tornano a casa senza avere una certezza di che cosa li aspetta, e senza avere magari un posto dove andare, una casa, un domicilio, non avere anche un lavoro, un'occupazione. Cioè, questo ci dicono i dati sui dimittendi. E ci dicono anche un'altra cosa: escono persone dal carcere spesso molto più malate di quando sono entrate. E quindi dobbiamo ricordarci anche questi aspetti, cioè sulla vulnerabilità, non solo emotiva, ma anche la vulnerabilità fisica, organica, sociosanitaria, direi. Però ecco, mi piace pensare che questo ritorno a casa sia un po' un'esperienza di attesa reciproca. E qui vi voglio citare un libro che sto leggendo in questi giorni, diciamo, letture. Ginevra Bompiani, L'attesa. Bene, ecco, è un libretto che appunto parla dell'attesa. E allora, ecco, forse citando una frase che riporta questa scrittrice, riportando Wittgenstein, dice: noi aspettiamo questo e siamo sorpresi da quello. Come a dire che aspettiamo l'attesa, l'atteso, invece è l'ospite che arriva. Cambia totalmente la prospettiva, perché quando entra l'ospite è un dato reale, mentre l'attesa ha ancora a che vedere con qualcosa di immateriale, di rappresentabile eventualmente, di immaginabile, di pensabile, ma non è il reale. Quando entra da quella porta invece diventa reale. Ecco, allora vorrei un po' dedicare a tutti noi un po' questo tempo dell'attesa reciproca e della possibilità di trasformarci l'uno per l'altro in quell'ospite al quale apparecchiamo la tavola, e aggiungiamo un posto e magari regaliamo anche qualche cosa di noi, il tempo prima di tutto e un po' di attenzione. Un ascolto. Quindi per chi è interessato a questo libro che hai appena citato, ritorno a farlo vedere, Ginevra Bompiani, L'attesa, scriveteci, cercheremo di farvelo avere magari chi desidera leggerlo. E allora, siccome concludiamo con questa bellezza del cambio di setting un po', no? Perché quando entra l'ospite è già cambiato il setting, allora facciamo entrare un po' di sole con i Beatles, Here Comes the Sun. Ok, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Here comes the sun, and I say, it's all right. chiudiamo con i venerdì di Liberi Dentro ed Uradio, con sempre il volto di Maria Inglese, la nostra psichiatra da Parma, e speriamo che il percorso con lei vi sia piaciuto. Lei ha detto tante cose, ha affrontato tanti argomenti, quindi magari scriveteci anche cosa ne pensate. liberidentro.uradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40, 136, Bologna. Oggi pomeriggio l'appuntamento è sempre con il teatro e quindi coi cantieri meticci. Grazie a tutti, ringrazio tantissimo il nostro tecnico Matteo Parisini e vi ricordo che ci saranno anche gli appuntamenti nel weekend con Liberi Dentro, non vi abbandoniamo, ore 17 Teatro del Pratello domani e ore 17.30 Cappellania, mentre la domenica ore 10 Note Libere, sempre su televisione, 10.30 La Cucina col Fomal e alle 17 il Teatro dell'Argine. E poi l'annuncio più importante di tutti è che se avevamo detto che le puntate terminavano il 18 di aprile, invece no, abbiamo trovato qualcosa, qualche fondo in più per continuare fino al 30 di giugno. Quindi siamo sempre con voi, seguiteci, buona giornata e buon fine settimana a tutti e tutte.